me è il massimo, va benissimo, perché io parto da casa, abito vicino al cimitero di San Marco, vengo giù da San Giorgio, la croce, il cimitero qua, adesso vado via dove c'è l'uscita dell'Eno nell'Adige, vado fino a Rovereto. Delle volte vengo via anche da qui. Per me è il massimo. Arrivederci, Arrivederci. buongiorno.